Mix 24 di Giovanni Minoli. È l'11 settembre, davanti agli occhi del mondo due aerei si schiantano contro le torri gemelle a Manhattan. L'America è sotto attacco in diretta TV. Parigi viene sterminata quasi per intero la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. I terroristi tengono in scacco la capitale della Francia per due giorni. Terrore senza precedenti a Parigi. Almeno 120 persone sono state uccise da almeno 8 kamikaze islamici. Una carneficina rivendicata dall'ISIS come l'11 settembre francese. Immaginate un virus, la paura, il virus più terribile che ci sia. Aiuto! Questa donna sta tremando. No, no, madame, no, no, no. Come on, come on. Tranquilla. C'è la gente che scappando si è nascosta nei portoni. La polizia li sta proteggendo, armati. Era solo un falso allarme. Gli Stati Uniti sprofondano nuovamente nell'incubo attentati. A fare scattare l'allarme una mail che faceva riferimento alla possibilità che in una o più scuole vi potessero essere degli zainetti esplosivi. Tanta paura per oltre 400 passeggeri del Boeing della Air France decollato dalle isole Mauritius e diretto a Parigi. Atterraggio d'emergenza in Kenya per la segnalazione di una bomba rivelatasi poi falsa. La gente ha paura, ma è normale. Dunque, la strategia della parola. Lucio Caracciolo, buongiorno, direttore di Limes. Ecco, l'ultimo numero della vostra della sua rivista si intitola La strategia della paura. Nell'editoriale, citando Lenin, voi scrivete: il terrorista porge al nemico la corda a cui impiccarsi. Quale corda ci offrono i jihadisti, professor Caracciolo? Pronto? Pronto il professor Caracciolo? È saltato tutto, non abbiamo in diretta il professor Caracciolo. Beh, questa è la sorpresa. Si fa il tentativo di ricominciare. Beh, vediamo, arriva, c'è qualche notizia? Sì, vabbè, insomma, strategia della paura è quello che è in atto in questo momento, no, Mario? Sì. Caracciolo ricorda in Limes, in questo numero della rivista, che è molto interessante, che cosa sta succedendo adesso nella contemporaneità. Citano l'arte della guerra di Clausewitz. Clausewitz, che è il libro che poi di questo dell'arte della guerra. Sì, ed è un libro fondamentale ancora oggi. E naturalmente sarebbe bello sentire cosa dice lui. Tra poco diretta, prima di anticipare. C'è? No, non c'è. Allora andiamo avanti con Clausewitz. E andiamo perché avanti è importante con Clausewitz. Per tutti. Ma per il management, la filosofia, la psicologia. È importante. No, è arrivato Caracciolo, professor Caracciolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, dicevamo, nell'ultimo numero della rivista, che si intitola Strategia della paura, nell'editoriale, citando Lenin, voi dite: il terrorista porge al nemico la corda a cui impiccarsi. Ecco, qual è la corda che offrono i jihadisti? La corda della guerra al terrorismo provocata dalla paura. Lo scopo dei terroristi è quello di farci agire in modo non razionale per servire i loro interessi. Ecco, e il modo che serve i loro interessi è quello di scatenare una guerra senza limiti contro di loro. Ecco, lei sostiene che è una contraddizione evocare, come ha fatto Hollande dopo gli attacchi del 13 novembre, l'esercito terrorista. Perché? Perché è una contraddizione? Perché esiste effettivamente un esercito terrorista sul terreno, ma quelli che ci colpiscono qui non sono necessariamente parte di quell'esercito. Spesso si tratta di imitatori o comunque di cellule che sono incardinate nella nostra società. Gli attentati in Francia sono stati compiuti da francesi e da belgi, esatto, non da medio orientali. Ecco, ma se il terrorismo è una tecnica di combattimento, cioè un'arma usata dai più deboli, allora quali sono gli strumenti dei terroristi? Gli strumenti sono quelli, purtroppo, anche dei suicidi, o comunque non ci sono strumenti, sono tutti buoni gli strumenti. E il vero problema che noi dovremmo considerare nel futuro è che si dotino di armi di carattere più pericoloso. Naturalmente. Ecco, professor Caraccio, lei sostiene che i media sono il primario obiettivo involontario strumento del nemico. Perché? perché i media per definizione enfatizzano i fatti, l'enfasi crea pubblicità, la pubblicità crea influenza e finanziamenti per i terroristi. Sì, però enfatizzano, danno notizie anche, come ci si può sottrarre? Cioè è un meccanismo molto complesso che abbiamo già dovuto affrontare sui terroristi, dare le notizie, non dare le notizie, insomma... No, le notizie bisogna darle tutte, senza eccezione. Il problema è come le si dà e soprattutto come si tenta di rappresentare questa galassia jihadista quasi come una sorta di Superman, cosa che non sono affatto. Ma può darci allora un profilo dei possibili candidati al jihad in Europa? Sono molto spesso giovani che vengono dalla microcriminalità, che sono stati istruiti e addestrati nelle palestre delle guerre medio orientali e che trovano nel cosiddetto jihad una legittimazione, un senso alla loro vita. Insomma, passano da piccoli criminali ad eroi di Dio. Ecco, ma professor Caraccio, riguardo all'ideologia, lei dice i terroristi che fanno strage in Europa non sono religiosi. Ecco, come fa a dirlo? Nel senso che sono semplicemente fautori di una versione apocalittica dell'Islam che riduce tutto al fatto che stiamo avvicinandoci alla fine del mondo e bisogna farsi trovare dalla parte giusta e combattere da questa parte. Non mi Quindi, pare che ci sia molto di religioso, questa certo. Visione apocalittica la troviamo dappertutto, anche nel cristianesimo o persino fra atei e agnostici. Quindi la negazione di una radice religiosa in senso stretto del conflitto? Assolutamente sì. Di fatto poi il conflitto si svolge quasi tutto in ambito musulmano. Certo, quasi una guerra civile sostanzialmente. Citando lo storico dell'Islam, Olivier Roin, lei dice anche che non siamo di fronte alla radicalizzazione dell'Islam, ma alla islamizzazione della radicalità. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Non lo è, vuol dire semplicemente che non siamo di fronte a una versione dell'Islam che ci minaccia in modo speciale, quanto siamo di fronte al fatto che giovani che comunque sarebbero ribelli, emarginati, che vogliono combattere per affermare se stessi, usano questa ideologia molto raccorciata di cui parlavo prima per legittimarsi. Ecco, una ideologia raccorciata, però uccidono in nome di Dio, è il loro Dio, sono stati ritrovati, ricordo l'11 settembre, i libri degli attentatori erano tutti improntati alla pratica, addirittura alla preghiera durante il dirottamento degli aerei si sentivano nei sonori originali, ecco come lo spiega questo? Sì, se lei va a vedere i libri che leggono questi signori, a parte il fatto che normalmente non si trova il Corano se non in versioni tipo il Corano per gli stupidi o cose del genere, vedete che effettivamente le loro fonti sono non molto diverse da quelle dei giovani di qualsiasi momento e di qualsiasi paese oggi. Si passa dai videogiochi e si arriva a sparare per il califfo. Quindi diciamo è una strumentalizzazione dell'interventismo di Bush, è stata questa di esaltare questa matrice? No, Bush stesso dopo l'11 settembre parlò il primo giorno di crociata, poi gli fu fatto capire appunto, che non era il caso. A Hollande nessuno ha fatto capire che dichiarare guerra all'islamismo radicale o addirittura al salafismo, come dice lui, è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. E anche se avesse ragione, sarebbe una guerra persa in partenza. Perché? Un paese contro una religione di 1,5 miliardi di persone, forse è meglio che si astenga dal combattere. Non farla. Senta, però ci sono delle differenze per esempio tra la guerra in Afghanistan e quella in Iraq, oppure no? Ma certamente ci sono delle differenze, ma la sostanza alla fine è che noi non riusciamo a controllare dei territori nei quali noi interveniamo per eliminare un dittatore o dei gruppi di terroristi, salvo poi non sapere chi mettere al loro posto. E infatti in Medio Oriente per esempio l'impegno nelle primavere arabe ha prodotto il caos sostanzialmente, cioè quella di Obama è stata una strategia del disimpegno ma abbastanza senza senso. Sì, e comunque alla fine il disimpegno è relativo, visto che negli ultimi tempi devono mandare rinforzi, e parlo di alla fine migliaia, per cercare di recuperare un po' del terreno perduto, cosa che peraltro non è affatto impossibile. Ma 15 anni di terrorismo, dalle Torri Gemelle al Bataclan, hanno cambiato noi europei? Io spero meno di quel che appaia. Nei momenti caldi sembra effettivamente di sì. Certo, se il presidente francese dichiara che bisogna cambiare la Costituzione dopo l'attentato di Parigi, beh, effettivamente forse significa che qualcosa di profondo sta cambiando. Quindi la strategia dei terroristi è una strategia che sta vincendo da questo punto di vista con l'influenza che ha, come dice lei, sui media? non solo sui media, ovviamente, in particolare. Vabbè, però anche lei diceva politici. Che no, sì, certo. Sì. No, beh, i politici le due cose si legano, insomma. Infatti, alla fine i decisori politici accettano questa versione, diciamo, molto enfatizzata della realtà, e quindi si arriva appunto a teorizzare che bisogna cambiare la Costituzione in seguito a degli attentati. Ecco, ma allora al terrorismo come si dovrebbe fare la guerra? In tre modi, direi: sul terreno, dal punto di vista militare, contenendo lo Stato Islamico, e che in parte stiamo già facendo. All'interno, attraverso operazioni di intelligence e di polizia, in particolare cercando anche di infiltrare le cellule jihadiste. E poi c'è una battaglia di carattere politico-culturale che consiste nel ridare finalmente un senso alla politica, perché poi coloro che accettano, certo, di sparare in nome del califfo lo fanno perché non trovano un senso alla vita. Certo, ma naturalmente anche lei lo citava, le operazioni di intelligence, diciamo questa tecnologizzazione dell'intelligence attraverso i droni eccetera, e con l'abbandono un po' del territorio, ha portato forse anche a una difficoltà di comprensione delle cose. Ma insomma, non, mica tanto, perché tutti o quasi i terroristi che hanno colpito Parigi erano più che noti alla polizia francese, salvo che ne abbiamo perse le tracce. Certo, se per ogni jihadista ci vogliono 10 poliziotti, evidentemente non abbiamo abbastanza poliziotti. Senta, ma una guerra di terra contro il califfato è una delle opzioni che lei prevede? È possibile che accada, ma francamente sarebbe un'operazione ad altissimo rischio, e soprattutto, ripeto, chi ci mettiamo al suo posto? Le alternative quindi sul terreno non sono particolarmente appetibili. E quindi in un certo senso dire attenzione in Siria, prima decidiamo che cosa può essere il dopo Assad, è una posizione che ha un senso. Perché abbiamo visto come è andata in Libia. Esatto, io penso che la prima cosa sia quella di cercare di comporre in qualche modo la vertenza siriana, che avverrà unicamente attraverso una spartizione del territorio. Cioè una spartizione del territorio fra chi? E tra tutte le entità che hanno un qualche rilievo su quel territorio, compreso evidentemente il governo di Damasco, che rappresenta una minoranza importante della Siria. E quindi prima spartizione, accordo sulla spartizione, e poi? E poi cercare di consolidare la situazione così com'è, una volta che si riesce a pacificarla, e cercare soprattutto di recuperare almeno in parte il territorio che è stato occupato dal califfato, ecco, il quale se comunque non ha nessuna speranza di realizzare i suoi sogni. Ma senza un accordo tra russi e americani questo è possibile? Assolutamente no, infatti americani e vede russi all'orizzonte questa possibilità, eh? Dopo gli accordi di New York, è una necessità, io vedo che c'è già molto più di quel che appare sul terreno, e penso che siano abbastanza consapevoli sia gli uni che gli altri che in questo momento su quel fronte hanno bisogno appunto gli uni degli altri. E quindi anche lo scontro fra Turchia e Russia? Quella è un'altra storia che vedo invece molto più pericolosa, perché La Turchia è nella NATO, e quindi insomma ci sono molte implicazioni. La Turchia è nella NATO, infatti questo può essere un rischio. E quella che mi pare una strategia molto poco strategica di Erdogan ci invischi in una guerra nella quale dobbiamo cercare di non finire. Grazie professor Caracciolo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms. Allora entriamo davvero dentro questa notizia. Mix 24, dentro la notizia. Ecco Mario, avevamo cominciato prima, sì, mentre aspettavamo Caracciolo, a parlare di von Clausewitz. Sì, che è un teorico della guerra. Esatto, tu anche sì, sei in qualche modo in questa vicenda un po' vicino alla guerra. Diciamo che ho un atteggiamento molto pragmatico. Condivido le cose che ha detto Caracciolo, sono sagge, realiste ovviamente. Tuttavia mi chiedo se l'Occidente non abbia perso un po' di quel idealismo che ci proiettava poi alla difesa non tanto delle democrazie, che lì non esistono, ma delle libertà. Cioè, perché l'idea anche di aspettare che si stabilizzi, per così dire, la situazione di ISIS è abbastanza prometeica. ISIS è una gang criminale che ammazza, sgozza e così via. Desidera lo scontro, il corpo a corpo, lo sappiamo. Basta vedere il corpo a corpo, che però l'Occidente non è tanto disposto a fare, no, perché le democrazie occidentali sono molto temibili, perché hanno questa profezia di Dabiq, che è molto interessante dal punto di vista loro culturale, cioè? È lo scontro finale tra come diceva l'Islam e le truppe di Roma. Hanno prodotto una serie di video, sono disponibili online per chi voglia cercarli, bisogna avere un po' l'animo forte per guardarli, però danno l'idea della determinazione con cui affrontano questo scontro, cosa sì. che noi non abbiamo. No, non c'è, però Pietrangelo, in un certo senso gli iraniani, abbiamo cominciato a dire, gli iraniani invece hanno reagito mettendo gli scarponi sul terreno di battaglia. E infatti, facendo seguito all'interessante saggio di Caracciolo, io credo che sia urgente avere chiara la situazione sul campo, e cioè distinguere tra quelli che non combattono affatto, quelli che offrono il massimo, al massimo offrono l'addestramento e qualche supporto, e sempre per citare Caracciolo invece, quelli che fingono di farlo il combattimento, e cioè Turchia, Arabia Saudita e gli altri arabi del Golfo, cioè, che fanno qualche bombardamento pro forma con una mano, come dice Caracciolo, e invece sostengono lo Stato Islamico con l'altra. Gli unici a farlo, gli unici a battersi efficacemente sul campo, che costituiscono quindi una parte geopoliticamente importante, sono soltanto i combattenti che si appoggiano alla Russia, all'Iran e agli eserciti di Baghdad, che non solo hanno al proprio interno i sunniti, ma anche gli sciiti e anche i cristiani. Tant'è vero che nelle battaglie più importanti di Damasco si sono unite anche alcune formazioni curde. Sapere queste cose è urgente, perché l'arma fondamentale della guerra che accompagna il caos è l'ignoranza sulla situazione. Certo. Ecco, Franco Cardini, che è un storico scrittore, in questi giorni è uscito un suo libro scritto con Marina Montesano, si intitola Terrore e idiozia. Ecco, Cardini, di errori nella lotta con l'Islam ne sono stati compiuti tanti. L'idiozia peggiore qual è stata? Ma l'idiozia peggiore è stata il non aver capito che il terrorismo non è una causa, è un effetto. È un effetto terribile, ma è l'effetto di una serie di concause, di disagi causati da una serie di errori che sono stati fatti da chi aveva maggior potere, perché è questa, cioè dall'Occidente, diciamo, storia. Più forte è il potere, più grande è il potere, più grandi sono gli errori che si compiono. Senta, nel libro voi dite anche che c'è un cuore di tenebra in Europa, cioè qual è questo cuore di tenebra? È il cuore di tenebra per cui il terrorismo islamico in determinati momenti ha fatto il gioco di alcune potenze e allora è servito. E queste potenze, e qui l'epiteto conradiano di cuore di tenebra, certo, è probabilmente molto azzeccato, adatto, azzeccato, e si è pensato che questi demoni che stavamo evocando, per esempio quando gli Stati Uniti, con l'appoggio sempre fedelissimo del re dell'Arabia Saudita, del nostro principale alleato nel vicino Oriente, hanno spedito dei missionari, predicatori, guerrieri in Afghanistan per fare la guerra contro gli atei dell'Armata Rossa e contro il regime. E hanno fatto nascere i talebani. E hanno fatto nascere Al-Qaeda, nascere i talebani. Senta, nel libro ci sono critiche dure nei confronti della NATO, che, cito testualmente, scrivete, impesta di basi militari nel Mediterraneo. Per lei è un'organizzazione inutile e dannosa? Non direi che sia questo. Diciamo che è un'organizzazione che è nata per certi fini. E che adesso fa fatica a trovare un obiettivo. Della guerra fredda, certo, contro l'Unione Sovietica, e che a un certo punto si è trovata in una situazione veramente raggelante, perché quando un'organizzazione militare e anche politica così forte, così articolata, diciamolo pure come lo direbbe il presidente Renzi, che dà anche tanti posti di lavoro, certo, si trova senza una ragione effettiva, e il nemico se la deve cercare, creare. Certo, senta, e a questo punto se lo sta cercando. Se lo sta cercando nel mondo islamico, certo. Chi cerca trova. Chi cerca trova. Senta, parliamo del caso Libia. Nel libro definite il ruolo dell'Italia nella caduta di Gheddafi meschino, però Berlusconi era contrario all'intervento. Berlusconi Berlusconi era contrario all'intervento. Non e ce l'ha io fatta. Devo dire, in fondo Berlusconi, questo suo essere una ruota che girava per conto suo nel meccanismo della politica e dell'economia e della finanza internazionale, a volte aveva delle intuizioni. Insomma, in questo caso aveva ragione. Aveva ragione quando diceva, badate, che bisogna in qualche modo dialogare con la Russia che sta risorgendo. Badate, non si può escludere dal contesto internazionale un grande, colto e ricco paese come l'Iran, che è uno dei paesi più avanzati e, attenzione, nonostante la rivoluzione islamica, uno dei paesi più occidentalizzati del mondo musulmano. Senta, professore, vedeva giusto, bisogna dirlo. Terrore e idiozia è il suo libro. Allora, Terrore e idiozia, nel caso del rapporto di adesso con la Libia, Renzi finora è stato molto prudente, anche se alla fine Obama ha anticipato che noi saremmo impegnati di più, e il giorno dopo che l'ha detto il governo italiano ha dovuto ammettere che invieremo 450 soldati per difendere la diga di Mosul in Iraq. Si avvicina la nostra entrata in guerra? Lo dico in termini brutali che possono sembrare antipatici, ma è la realtà che conosciamo tutti. Noi non abbiamo sovranità militare. Non avendo sovranità militare, non abbiamo sovranità diplomatica, sovranità politica, non lo so, però sì. Il nostro potente alleato ci dice che dobbiamo fare una cosa, noi dobbiamo farla. Anche perché il nostro potente alleato ha una sua politica, una sua visione per il medio, per il vicino Oriente. Pensiamo ai suoi contatti con Putin, pensiamo ai suoi contatti con l'Iran, che hanno avviato un processo di disgelo, che non è la stessa visione che ha per esempio il blocco sunnita costituito da Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Turchia. E quindi a questo punto noi italiani ci stiamo schierando, e il presidente Renzi è la prima persona, con la presidenza degli Stati Uniti in un'America che è profondamente lacerata, perché il congresso degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ci sta mandando invece dei segnali diversi, quindi aiutare i sunniti nella lotta, in ultima analisi, contro gli sciiti, nonostante i gravi dubbi che qualche potenza araba sunnita in realtà sotto sotto, e nemmeno troppo sotto sotto, aiuti il califfato. Certo. E allora a che gioco stiamo giocando? Su tutti i tavoli. Che quanto a errore e quanto a idiozia, ogni tanto gli amici repubblicani del congresso statunitense ne fanno qualche, qualche esempio di entrambi ce la stanno dando. Quindi un saggio di come terrore e idiozia possono stare insieme, mi pare che Cardini ce l'abbia dato con chiarezza. Cardini è sempre controvento, mi piace e va protetto per questo, anzi più Cardini ci sono meglio, perché è il sale del dibattito. E, sì, la critica contro l'Occidente è molto dura, io penso che ci siano delle parti molto condivisibili, altre meno. Nel libro, per esempio, si mette in dubbio, questa è una tesi che io contrasto, ma ci si può, argomentare bene da una parte e dall'altra, però io tengo la mia in questo caso. Loro dicono non è uno Stato, quello islamico. Io invece considero che sia uno Stato. Sì, anche Caraccio dice non è uno Stato. Sì, però alla fine impone la sua legge, batte moneta, riscuote le gabelle con la violenza, fa commercio interno, tesse relazioni internazionali, diplomatiche con paesi fiancheggiatori, insomma, sai, non è stato perché non è riconosciuto all'ONU, quello è di fatto purtroppo uno Stato, nel senso che detiene un territorio e cerca di espanderne i confini. E secondo me è per questo legame che ha, che ha con il territorio, che ISIS è diversa finora da quello che abbiamo visto. Cioè è un'altra cosa. È una cosa molto, molto più pericolosa, penetrante. Ho incontrato un diplomatico nel weekend che sosteneva, così eravamo prende un caffè, che sosteneva che no, che ISIS era semplicemente una gang criminale. Secondo me sono le due teorie che si combattono. Dice Claudio da Torino: avete una gran paura di parlare della guerra di religione, aveva ragione la Fallaci. Qui proprio abbiamo paura noi, è difficile, è tre anni che parliamo solo di quello. Io cito sempre, perché Claudio ci scrive spesso, ecco, Pietrangelo, Oriente e Occidente potranno mai incontrarsi senza spada in mano? C'è solo un modo, ed è soltanto la logica imperiale che lo può svelare, lo può spiegare. Chiedere a 20 milioni di musulmani russi, per esempio, che vivono all'interno della comunità cristiana più grande, più importante, più potente, qual è la Russia, le tre grandi religioni nel continente eurasiatico sono appunto la Chiesa ortodossa, l'Islam e il lamaismo tibetano, hanno da sempre convissuto, pur contenendo nella propria tragedia, nella propria storia, vicende terribili, quali sono state quelle mai concluse del caso ceceno, quelle mai concluse del Tibet, quelle mai concluse che vedono degli scontri profondi che comunque non hanno mai avuto un esito terribile, spaventoso, quale la guerra civile globale che oggi vede contrapporsi da un lato il terrorismo assassino e dall'altro lato quella che, per dirla con Khamenei, quindi evocando un leader spirituale musulmano, è la civiltà che mette insieme tutti noi, tutta l'umanità contro la bestialità terrorista. E se guerra di religione c'è, per evocare quello che diceva il nostro ascoltatore, la unica religione che si contrappone alla bestialità assassina dei terroristi è questa idea universale tradizionale della religione di tutti. Ecco, il generale Carlo Jean, nel suo ultimo contributo proprio su Limes, dice invece che i musulmani devono temere l'Occidente più dei terroristi. Ecco, in che senso, generale? Ma sicuramente i musulmani hanno devono fronteggiare diversi pericoli, però questi pericoli che possono fronteggiare l'Occidente, che se l'Occidente perde la pazienza, automaticamente li mette sotto. Senta, però l'ISIS è un pericolo da battere senza tentennamenti, è così oppure no? A mio avviso sì. Nel senso che una volta che c'è un pericolo e si decide da batterlo, non occorre avere tentennamenti di sorta, ma andare fino in fondo. Ma esiste una strategia della paura? Beh, esiste una strategia della paura, ma non solamente in campo strategico, anche in campo economico. Le emozioni e la razionalità agiscono in maniera uguale sulle decisioni di carattere economico e tanto più sulle decisioni di carattere politico-strategico, in cui determinante è l'influsso dell'opinione pubblica. Ma chi la persegue questa strategia della paura? Ma la strategia della paura persegue la delegittimazione dell'avversario, la capacità dell'avversario di reagire, praticamente che viene erosa, e la disponibilità dell'avversario ad accettare le proprie condizioni di pace, perché quando uno impiega la forza non fa mai la guerra per la guerra, ma per la pace che segue la guerra. Ma oggi a chi conviene la strategia della paura, a alimentarla? Ma la strategia della paura è vecchia come il mondo. Certo, ma oggi in queste circostanze, oggi. Ma automaticamente la strategia della paura è l'impiego virtuale della forza. Ma perché, generale Jean, la lettura millenaristica e apocalittica del Corano è funzionale alla strategia di guerra dell'ISIS? No, perché l'ISIS si ispira proprio alla profezia di David, una strategia di carattere apocalittico millenaristico cioè è fondamentale per il racconto dell'ISIS questa profezia, diciamo. Quello lì sicuramente, sicuramente anche per il morale della truppa. Sicuramente è una profezia che attira parecchi foreign fighters. Ecco, ma può spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il libro della spada e perché anche questo fa parte della strategia dell'ISIS? Il libro della spada è una parte del Corano che fa riferimento al messaggio di Medina, cioè al messaggio di Maometto quando si è recato dalla Mecca a Medina, ha rinunciato a una conversione degli miscredenti e ha deciso di convertire i miscredenti con la forza. Senta, generale, lei è uno stratega. Il non voler mettere gli scarponi sul campo di battaglia da parte degli Stati Uniti e dell'Europa non è la vittoria della strategia della paura? Questo qui sicuramente è anche un effetto, in quanto l'opinione pubblica non accetta perdite, di conseguenza i governanti devono tenere conto di queste grosse tendenze dell'opinione pubblica. Ma lei invierebbe truppe per terra invece? Ma avviso, se si vuole risolvere la questione, prima o poi si dovranno usare le truppe a terra. Ma quanti uomini servono per vincere la guerra con lo Stato Islamico? Ma lo Stato Islamico ha 30-40 mila combattenti addestrati, professionali e così via. Di conseguenza, per batterli ce ne vogliono circa il doppio, 70-80 mila. Senta, ma questo... Sberga, ci sono le forze irachene, ci sono anche gli iraniani. Ci sono delle forze iraniane, insomma, adesso lì sono poche centinaia o poche migliaia di specialisti. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Pietrangelo dice poche centinaia, il medagliere del generale rispetto a quello che sta facendo Qassem Soleimani sul terreno, non so se posso avventurarmi in questo confronto. Però mi incuriosisce la formazione, chissà in quale madrassa avrà evocato questa spada, perché, se posso permettermi, quando i musulmani sono perseguitati, Maometto fa loro questo discorso: andate in Abissinia dal re cristiano. Vanno in Abissinia dal re cristiano, che ascolta, che li protegge, perché appunto vanno in fuga da Mecca. L'unica spada che viene ricordata è quella che il re abissino prende in pugno e lascia un segno sul terreno, e su quel segno tracciato dalla spada dice: ecco qual è la differenza tra me e voi, sottile come il filo di questa spada. Interessante, questo, Mario. La spada c'è sempre. Anche i cattolici hanno. Non è mica un problema, senti, è la storia. Per chiudere, generale Jean, sei d'accordo con lui tu? Sì, lui è molto anche più realista di me, secondo ancora quello. Di più. Beh, lui moltissimo. Ha fatto anche il conto. Realista o atlantista, come hai detto? Tutte e due. No, guarda che il generale è uno bravo. Ha fatto già i conti anche delle truppe, il doppio. No, io ho messo il triplo. Sì. Insomma. Ha dimezzato quella degli iraniani. Perché tu adesso pensi adesso che sia così? Che siamo al medagliere. Al palmarès della guerra. La guerra lunga, in realtà. Vabbè, dopo parleremo di noi la spacchettiamo in tutte le da tutti i punti di vista. Proviamo a dare degli elementi per ragionare, invece dispiace emotivi. posso fare una nota, dispiace che la politica non la affronti con la stessa non c'è profondità di riflessione. Sta facendo la guerra alla Merkel, il poveretto. Questo è un altro tema, ci torneremo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Ma naturalmente moltissime reazioni a questi temi eccitano gli animi, la fantasia, la discussione, però delle volte viene a fare una riflessione un po' strana, perché noi sono 3 anni forse che cerchiamo di dare elementi di riflessione. Poi Marco ci scrive: non comprendo la vostra ostilità verso la Russia, popolo straordinario con le idee chiare in politica. Allora ti cascano le braccia e dici: è inutile che parliamo, perché sono 2 anni che proviamo a dire che l'Europa è dall'Atlantico agli Urali, che forse le sanzioni sono sbagliate, ma non lo so, vabbè, non siamo ancora abbastanza chiari. Per fortuna qualcuno dice: bellissima puntata. Grazie Sebastiano, ci tira un po' sul morale. Stefano su Twitter, voglio citarlo, dice: l'ISIS batte moneta, questa non la sapevo. Sì, purtroppo c'è anche questo, ed è in oro anche, c'è un peso d'oro dentro, è da luglio-agosto che stanno provando a fare sta cosa. Enrico Morandini ci dice: ma la Cina rispetto agli Stati Uniti e alla Russia che posizione ha nei confronti del califfato? Penso che sia nel sottofondo, no? Sta là dietro e in qualche modo non è assente, non è presente attivamente, ma mi pare che sia. E poi che dicono? Sia là. Insomma, tante cose di questo genere qua. Insomma, Erdogan agisce a nome della NATO, ma associazione di guerra fondata. Vabbè, Fornella, va bene. Allora. Ponzi, proviamo ad andare con la canzone, Pietrangelo. se sempre questa implacabile cancellarsi della ruota e della svolta, insomma è l'albeggiare, quindi arriva con la luce il mare grande del cielo, capovolto con tutti i nomi e tutte le combinazioni, ed ecco, ed è una chicca, ha chiamato Persefone e l'ha mandata a dire a Efesto: tu e tutto il tuo fuoco, questo è il suo messaggio, tu e tutto il tuo fuoco, trafiggimi d'amore. Che trangelo? Dimmi. A Ulisse che dice? Ulisse. Sì, ci dice Minoli, noi dobbiamo essere alla ricerca dell'Island di Buttafuoco e aiutarlo. Mi sembra che sia una cosa saggia, molto saggia. E poi ancora, fino a che l'economia mondiale, questa per te Mario, se, fino a che l'economia mondiale sarà basata sull'oro nero non ci sarà soluzione. Ah, l'hai evocato! Perché adesso devi parlare di questo. Adesso ci facciamo un ragionamento. Hai introdotto il tema di Mario. Vai Mario con la tua bolla. Vai. Questo è il grande Rino Gaetano. Spendi, spandi e fendi. Io ho una cuffia che non ha i bassi stamattina, quindi non la posso apprezzare adeguatamente. Invece però facciamola sentire. Sentire ancora un po', dai. Cristina, se vuoi la chiudo pure in monastero. Allora, il nostro ascoltatore l'ha evocato, è il petrolio. Siamo a 35, Giovanni, e non accadeva da 11 anni, mi pare. E può scendere ancora? La vera domanda che tutti si fanno è: a quanto arriva? A quanto sprofonda? Ora, viene citato uno studio di Goldman Sachs che dice che può arrivare a $20 il barile. Ora, $20, non so fino a quando bisogna tornare. Lo regaleranno certo, te lo danno il petrolio. Chi vuole petrolio? Ti fermi a Milano alla stazione e dicono: beh, Minoli, vuoi un barile di petrolio? Insomma, $20, però bisogna tenerne conto, perché poi è gente seria questa. Il mercato mondiale, una cosa è sicura, c'ha 580.000 barili per day al giorno in eccesso rispetto. E non è ancora arrivato l'Iran. E non è ancora arrivata la produzione iraniana. Forse arriveranno, che ce lo regalano. La produzione iraniana. Cosa significa? Conseguenze per l'Italia. Proviamo a fare ragionamenti. La benzina sta sempre lì, allo stesso livello. Sì, che loro continueranno a pompare fiscalmente in realtà dai carburanti. Però è anche vero che nel gioco delle materie prime questo dovrebbe essere uno scenario irripetibile per il governo Renzi. Da sfruttare. Non lo sfruttano. Perché la crescita comunque resta molto bassa rispetto alle potenzialità e vedremo. Comunque il più bello SMS è quello di Federico. Dov'è? Martra di Alessandra, che dice: che puntata, non mi fate andare sulla radio dello sport, è del lunedì e sono juventino. Evviva! Anch'io juventino, a me tocca sta qua. vai con Salamino. Questo è bello. Coscia, petto, ala, il centrodestra è servito. Sì, c'è perché chi vuole la coscia, chi vuole il petto, chi vuole l'ala, insomma c'è chi la prende di petto, ed è Renato Brunetta. Rischiando di essere esautorato, l'ha presa di petto la questione, e in questo fine settimana di congiura, in questo fine settimana di congiura, rischiava di essere sostituito da Mara Carfagna, rimasto, ha confermato se stesso, e soprattutto nel confermare se stesso ha confermato chi? Lui! Che bella ragazza, lavori al call center, ma il tuo contratto non è permanente, però tu assunta sarai. Come? Solamente se me la dai. Insomma, è tornato Berlusconi, quindi quello l'ha presa di petto, è tornato Berlusconi e Silvio prende sempre la coscia, e il centrodestra torna in gamba. Ha detto, sempre l'ha detto collegandosi telefonicamente: se usiamo internet facciamo una grande crociata per la democrazia e anche una catena di Sant'Antonio per chi non è andato a votare. Insomma, è una pacca sulla coscia dei sempre in gamba, e quella di Silvio Berlusconi ha una logica tutta sua, perché dopo il petto, la soda coscia, che cosa c'è? C'è la ghiotta ala. E cosa può mai essere l'ala? Ossia Alleanza Liberal Popolare Autonomie, che è il gruppo parlamentare di Denis Verdini, che è sempre più in doppio raddoppio di fiocco e contro fiocco, ed è cosa è? Il treno se ne va. È l'ultimo treno! Dopo l'ultima figuraccia col mancato voto alla mozione di sfiducia alla Maria Elena Boschi, che era già stata concordata con gli alleati, era già quindi nell'aria, c'è stata pure la minaccia di Salvini, insomma uomini e donne del centrodestra non sanno dove andare a sbattere. Insomma, la questione, caro Giovanni, caro Mario, qual è? Che debole è il petto, malferma è la coscia. E l'ala è, con le parole di Verdini, appunto l'ultimo treno. Ha detto, devono capire, e lo ha detto da Lucy, cioè da Lucia Annunziata, che è l'ultimo treno. Oh, anche Renata Polverini sta passando con Denis, eppure Giorgio Lainati, ingiustamente licenziato, sta passando con Denis. Insomma, l'ala si mangia il petto e la coscia, ed è tutto una taranta. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella dello centrodestra. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Sirtachino. Perché sai che io ho una passione per... Ce la siamo dimenticata, sta Grecia. No, bisogna sempre seguirla, perché è molto interessante. Sai, in fondo gli abbiamo solo dato un prestitino da 86 miliardi che loro stanno consumando come vogliono. La cosa si sposa anche a Podemos, a tutti questi movimenti europei, diciamo, che, come dire, sono anti-europei, però poi stanno in sella con l'euro, che bisogna anche spiegarla questa cosa qua. No, Tsipras non è mai uscito, si è preso i soldi, che sono nostri. Vorrei ricordarlo agli amici che ci ascoltano, e ha appena detto che non vuole il Fondo Monetario Internazionale nei programmi di salvataggio. Ora, c'è anche da capirlo, nel senso che Tsipras è un furbacchione come pochi. Gli hanno chiesto la riforma delle pensioni, che lui non vuole fare, ovviamente. I greci se ne vanno tranquillamente in pensione come meglio credono. Nel 2016 il debito greco sarà pari solo al 190% del PIL. Quindi vedete voi, noi continuiamo pure a pagare per loro, una cosa meravigliosa. Canzoniere. Nella luce uniforme, dalle navi alla città, solo il passo che alla notte solitario si percuote per la notte, dalle navi solitario ripercuote. Così vasta, così ambigua, per la notte così pura, l'acqua. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Niente aiutino. La spedizione rappresenta uno sforzo straordinario, perché si trasportano tutti gli elementi necessari alla realizzazione di un grande progetto, la creazione di una nuova città. Tutti avevano la consapevolezza di essere partecipi della costruzione di una nuova piccola città, laddove praticamente nulla esisteva. Una nuova piccola città si chiamerà Ushuaia. È la sfida di un abile uomo d'affari bolognese e dei suoi ingegnosi operai, che nel 1948 trasformano una ex colonia penale in una città, la città più a sud del mondo. Perché nel primo dopoguerra gli italiani continuavano a emigrare anche nei luoghi più inospitali come la Patagonia, la terra amata da Chetwin e da Sepúlveda. Così ancora oggi, viaggiando nella Terra del Fuoco, capita di sentire parlare la nostra lingua. Ushuaia, italiani alla fine del mondo, coraggio, nostalgia e mistero nella Terra del Fuoco. Qui a Mix 24, i gialli della storia dopo il giornale radio. È davvero una storia incredibile questa, Mario, c'è una bolla ancora? Un ghecchino prima? Io non creo niente, io posseggo e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Allora, è solo per dire che i titoli spagnoli a 10 anni, il tasso di interesse è salito di 18 punti base subito, vista l'incertezza politica della formazione del governo. Cioè 18 punti? Sì, insomma c'è un po' di tensione, giusto, ma poi vediamo che cosa succede, perché sai, lì non si sa veramente che governo fanno. Ma soprattutto quella è una legge elettorale che assomiglia tanto alla nostra. Abbastanza. E quindi questo, non dico niente. Questo modello spagnolo rischia di portare all'ingovernabilità. È il bipolarismo diviso 4, 2 per 4, è una specie di supermercato. Sì, ma non fa 8, quello è il problema. In politica 2 per 4 fa 6. Secondo me il problema vero è sa democrazia. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina che sono apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, 13 ottobre 2015. Nuova enfasi sulla misurazione della pressione dal medico o a casa. Continuo a parlare di pressione, ne abbiamo parlato tante volte, ma perché la pressione è praticamente un amico nemico dell'età, nel senso che la pressione alta dopo i 60 anni interessa il 65% della popolazione, quindi quasi tutti praticamente. E allora la raccomandazione che abbiamo fatto varie volte è che la pressione deve essere tenuta su 120, 130, su 80 a seconda di un passato o di un presente con rischio di malattia ischemica o una vera e propria malattia cardiaca come lo scompenso. Bisogna e si può ottenerla a 150 o sotto i 150, sotto i 60 anni. Ma la cosa che ci dice questo articolo è che bisogna essere molto attenti alla fase misuratoria della stessa pressione, perché c'è quello che si chiama il cosiddetto effetto camice bianco, cioè andiamo dal nostro medico, andiamo dal medico, andiamo in un pronto soccorso per misurarci la pressione e non è detto che i valori che andiamo a controllare siano quelli giusti, perché c'è l'effetto camice bianco, quello sbalzo di pressione dato per fenomeni più emotivi, reattivi, che non perché la pressione sia di per sé alta. E allora qual è la soluzione? Molto semplice. Bisogna utilizzare, come si fa per l'elettrocardiogramma, il cosiddetto holter pressorio, che fa una misurazione ogni mezz'ora per 24 ore e così nell'ambito della vostra vita di tutti i giorni, nell'ambito della vostra casa o dell'ambiente lavorativo, prende i valori di pressione, quelli giusti, perché sono non influenzati dall'emozione di vedere il medico. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto Anche Se di Gino Paoli. Anche se sei stata di un altro, se gli hai detto le stesse parole che tu dici a me ogni giorno, ogni giorno, ogni notte, anche se sei stata di un altro, sei tremato alle sue carezze come tremi oggi alle mie. Ogni giorno, ogni notte, ma io